avanti su 10. Sì, ma fino a quella cosa lì ripugnibile. Oh Billy! Canale 10, i morti ci sono o devono resuscitare ancora? Attenzione, canale di morti.